Le disposizioni prese da Mr. Casaubon al momento del suo matrimonio lo lasciavano libero di prendere energiche misure, ma nel ruminare su di esse il suo pensiero inevitabilmente si soffermò a tal punto sulle probabilità che gli restavano di vivere, che il desiderio di giungere a una previsione il più possibile esatta aveva infine avuto il sopravvento sulla sua orgogliosa reticenza e lo aveva indotto a chiedere l'opinione di Lydgate riguardo alla natura della propria malattia. Aveva ricordato a Dorotea che Lydgate doveva venire per appuntamento alle 3:30 e in risposta alla domanda ansiosa di lei se si fosse sentito male, egli rispose: «No, desidero semplicemente avere la sua opinione riguardo a certi sintomi abituali. Non è necessario che lo vediate, cara. Darò disposizioni perché mi venga mandato nel sentiero del Tasso, dove starò facendo del moto come di consueto». Quando Lydgate imboccò il viale del Tasso, vide Mr. Casaubon che si allontanava lentamente con le mani dietro la schiena, secondo la sua abitudine, e la testa china in avanti. Era un pomeriggio stupendo. Le foglie dei tigli maestosi stavano cadendo silenziosamente attraverso gli oscuri sempreverdi, mentre le luci e le ombre riposavano fianco a fianco. Non vi era alcun rumore, tranne il gracchiare dei corvi, che per l'orecchio abituato è una ninna nanna. O quell'ultima solenne ninna nanna, un canto funebre. Lydgate, consapevole della sua forte struttura nel suo massimo vigore, provò una certa compassione quando la figura che ben presto avrebbe raggiunto si girò e nell'avanzare alla sua volta mostrò in modo più marcato che mai i segni della vecchiaia prematura, le spalle curve dello studioso, le membra emaciate e le rughe malinconiche della bocca. Poveretto, pensò. Certuni alla sua età sono come leoni, della loro età non si può dir nulla se non che sono maturi. Mr. Lydgate, disse Mr. Casaubon con il suo fare invariabilmente educato, vi sono estremamente grato per la puntualità. Se volete, converseremo mentre passeggiamo avanti e indietro. Spero che il vostro desiderio di vedermi non sia dovuto a ricomparire di sintomi spiacevoli, disse Lydgate mentre l'altro faceva una pausa. Non immediatamente, no. Per spiegarvi il motivo di questo desiderio, devo accennare al fatto, che altrimenti sarebbe inutile riferire, che la mia vita, per tutte le altre cose insignificante, trae una certa importanza dall'incompletezza del lavoro a cui si è dedicata in tutti gli anni migliori. In breve, sto da tempo lavorando a un'opera che desidererei lasciare dopo di me in uno stato, almeno, in cui potesse essere data alle stampe da altri. Se io avessi la sicurezza che questo è il massimo che posso ragionevolmente aspettarmi, quella sicurezza sarebbe un'utile limitazione dei miei tentativi e una guida nel determinare sia positivamente che negativamente la mia linea di condotta. A questo punto, Mr. Casaubon si fermò, trasse una mano dalla schiena e la cacciò tra i bottoni della sua giacca a un petto solo. Per una mente in ampia misura esperta del destino umano, ben poco poteva essere più interessante del conflitto interiore sottinteso dal suo discorso misurato e formale, pronunciato con la cantilena e il movimento del capo consueti. Anzi, sono forse molte situazioni di più tragica sublimità della lotta dell'anima contro l'esigenza di rinunciare a un'opera che è stata tutto il significato di una vita, un significato che è destinato a svanire come le acque che vanno e vengono dove nessun uomo ne ha bisogno. Ma non c'era nulla che desse l'impressione della sublimità in Mr. Casaubon, e Lydgate, che nutriva facilmente un certo disprezzo per il sapere futile, provò, misto alla compassione, un certo divertimento. Al momento era troppo poco familiare con il fallimento per partecipare al pathos di un destino dove tutto è al di sotto del livello della tragedia, tranne l'appassionato egoismo di chi soffre. Vi riferite ai possibili impedimenti per la mancanza di salute? Disse per aiutare Mr. Casaubon a esprimere il proprio pensiero che sembrava inceppato da qualche esitazione. Sì, non mi avete detto che i sintomi, che devo ammetterlo, avete osservato con cura scrupolosa, erano quelli di una malattia mortale. Ma se fosse così, Mr. Lydgate, desidererei sapere la verità senza esitazioni. E io mi appello a voi per un'esatta esposizione delle vostre conclusioni. Ve lo chiedo come un favore da amico. Se potete dirmi che la mia vita non è minacciata da altro che dai pericoli ordinari, ne sarò felice, per i motivi che vi ho già indicato. In caso diverso, la conoscenza della verità per me è anche più importante. Allora non posso più esitare riguardo alla mia linea di condotta, disse Lydgate, ma la prima cosa che dovete bene imprimervi in mente è che le mie conclusioni sono doppiamente incerte. Incerte non solo a causa della mia fallibilità, ma perché è assai difficile fare previsioni sulle malattie cardiache. In ogni caso, si può difficilmente aumentare in misura apprezzabile la tremenda incertezza della vita. Mister Casebolt trasalì visibilmente, ma si inchinò. Io credo che voi siate affetto da quella che viene chiamata degenerazione grassa del cuore, una malattia che fu per la prima volta supposta e studiata da Laennec, colui che ci ha dato lo stetoscopio non tanti anni fa. Manca sull'argomento molta esperienza, un'osservazione più lunga. Ma dopo ciò che mi avete detto, è mio dovere informarvi che la morte in seguito a questa malattia è spesso improvvisa. D'altra parte, nessun esito simile si può prevedere. Le vostre condizioni possono permettervi una vita tollerabilmente tranquilla per altri 15 anni o addirittura di più. Non potrei aggiungere altre informazioni a questa, a parte dettagli anatomici o medici che lascerebbero le attese esattamente allo stesso punto. Lydgate aveva un istinto abbastanza fine per capire che questo discorso chiaro, del tutto esente da cautele ostentate, sarebbe stato sentito da Mr. Casebolt come un tributo di rispetto. Vi ringrazio, Mr. Lydgate, disse Mr. Casebolt dopo un attimo di pausa. Ho ancora da chiedervi un'altra cosa. Avete comunicato a Mrs. Casebolt ciò che ora avete detto a me? In parte. Voglio dire, riguardo agli esiti possibili. Lydgate stava per spiegare perché l'aveva detto a Dorothea, ma Mr. Casebolt, con un desiderio evidente di porre termine alla conversazione, agitò lievemente la mano e ripeté: Vi ringrazio, passando a parlare della rara bellezza della giornata. Lydgate, certo che il suo paziente desiderasse restare solo, subito dopo lo lasciò. E la figura nera, con le mani dietro la schiena e il capo piegato in avanti, continuò a percorrere il sentiero dove gli scuri tassi si univano a lui in malinconica compagnia e le piccole ombre di uccelli o di foglie che attraversavano veloci le chiazze di luce del sole fuggivano furtivamente in silenzio come la presenza di un dolore. Ecco un uomo che ora per la prima volta si trovava a guardare negli occhi la morte, che stava attraversando uno di quei rari momenti dell'esperienza in cui avvertiamo la verità di un luogo comune, che è diversa da ciò che chiamiamo conoscenza, come la visione delle acque sulla terra è diversa dalla visione delirante dell'acqua che non si può avere per rinfrescare la lingua bruciante. Allorché il luogo comune tutti dobbiamo morire, si trasforma improvvisamente nell'intensa consapevolezza. Io devo morire, e presto. Allora la morte ci afferra, e le sue dita sono crudeli. In seguito può darsi che essa venga a stringerci fra le braccia come nostra madre, e il nostro ultimo momento di coscienza terrena può darsi che sia simile al primo. Ora, per Mr. Casebolt era come se si trovasse improvvisamente sull'oscura sponda e udisse il tonfo del remo che si avvicinava, senza distinguere le forme, ma in attesa di essere chiamato. In una simile ora, la mente non muta la tendenza di tutta una vita, ma se la porta dietro nell'immaginazione al di là della morte, volgendo indietro lo sguardo, forse con la calma divina della carità, forse con le ansie meschine della presunzione. Quale fosse la tendenza di Mr. Casebolt, i suoi atti ci daranno un'indicazione. Egli si riteneva, con alcune dotte riserve personali, un cristiano credente quanto al giudizio sul presente e alle speranze sul futuro. Ma ciò che tentiamo di appagare, sebbene possiamo chiamarla una speranza lontana, è un desiderio immediato. La condizione futura per la quale gli uomini arrancano faticosamente sui viali di città esiste già nella loro immaginazione e nel loro amore. E il desiderio immediato di Mr. Casebolt non era una comunione divina e una luce spoglia da condizioni terrene. I suoi desideri appassionati, pover'uomo, erano abbarbicati in basso e come nebbia in luoghi assai ombrosi. Dorothea aveva visto quando Lydgate si era allontanato a cavallo ed era uscita in giardino con l'impulso di correre subito dal marito, ma esitò, temendo di offenderlo con la propria invadenza, perché il suo ardore continuamente rifiutato serviva, con la sua viva memoria, ad accrescere il suo timore nello stesso modo in cui un'energia frustrata si placa in un fremito. Vagabondò a passi lenti attorno ai gruppi più vicini di alberi finché non lo vide avanzare. Allora gli andò incontro e avrebbe potuto rappresentare un angelo inviato dal cielo che giunge con la promessa che le brevi ore che restano dovrebbero essere ricolme di quell'amore fedele che si stringe ancora di più a un dolore compreso. Lo sguardo che gli le rivolse in risposta al suo fu talmente gelido che lei sentì la propria timidezza aumentare. Pure si voltò e gli passò la mano attraverso il braccio. Mister Chesebo tenne le mani dietro la schiena e consentì con difficoltà al braccio flessibile di lei di stringersi al suo braccio rigido. Per Dorotea vi era qualcosa di orribile nella sensazione che questa durezza, lei sorda, le infliggeva. È una parola forte, ma non troppo. È in questi atti chiamati banalità che i semi della gioia vengono per sempre sprecati, finché uomini e donne guardano con visi stravolti la devastazione che li circonda e che è stata creata dal loro spreco, e dicono che sulla terra non si raccoglie messe di dolcezza, chiamando conoscenza il loro rifiuto. Si può chiedere perché, in nome di ciò che è virile, Mister Chesebo si dovesse comportare in quel modo. Considerate che la sua mente si ritraeva dalla compassione. Avete mai osservato in una mente simile le conseguenze del sospetto che ciò che la opprime come un dolore può essere in realtà una fonte di gioia, presente o futura, per la persona che già la offende con la sua compassione? Inoltre, egli sapeva poco dei sentimenti di Dorotea e non aveva riflettuto che in quell'occasione simile questi erano paragonabili per forza a ciò che egli provava per le critiche di Kerp. Dorotea non ritrasse il braccio, ma non si azzardò a parlare. Mister Chesebo non disse: voglio restare solo, ma diresse in silenzio i passi verso casa, e mentre entravano dalla porta a vetri sul lato orientale, Dorotea ritirò il braccio e indugiò sulla stuoia per poter lasciare il marito completamente libero. Egli entrò nella biblioteca e si chiuse dietro, solo col suo dolore. Lei salì al proprio boudoir. Il bovindo aperto lasciava entrare il fulgore sereno del pomeriggio nel viale, dove i tigli gettavano lunghe ombre. Ma Dorotea non si rese conto della scena. Si gettò su una poltrona senza curarsi del fatto che era colpita dai raggi eccecanti del sole. Se ciò le dava afflizione, come faceva a dire che non era parte della sua tristezza interiore? Stava reagendo a un'ira ribelle più forte di qualsiasi altra che avesse provato da quando era sposata. Invece di lacrime uscirono parole. Cosa ho fatto? Cosa sono? Che debba trattarmi così? Non sa mai cosa mi passa per la mente, non se ne cura. A che serve qualsiasi cosa io faccia? Vorrebbe non avermi mai sposata. Cominciò a udire la propria voce e frenandosi tacque. Come uno che ha smarrito la strada ed è stanco, si sedette e scorse quasi ad una sola occhiata tutti i sentieri della sua giovanile speranza che non avrebbe più trovato. E altrettanto chiaramente, in quella luce triste, vide la solitudine propria del marito, come camminavano separati, di modo che lei era obbligata ad osservarlo. Se egli l'avesse attirata a sé, lei non l'avrebbe mai osservato, non si sarebbe mai chiesta: vale la pena vivere per lui? Ma l'avrebbe sentito semplicemente una parte della propria vita. Ora disse con amarezza: la colpa è sua, non mia. Nella dissonanza di tutto il suo essere, la compassione fu abbattuta. Era colpa sua aver creduto in lui, aver creduto nel suo merito. E cos'era egli esattamente? Era abbastanza in grado di valutarlo. Lei che pendeva tremante dai suoi sguardi e chiudeva la propria migliore anima in prigione, facendole soltanto visite furtive per poter essere abbastanza meschina da compiacerlo. In crisi simili a questa, alcune donne incominciano ad odiare. Il sole era basso. Quando Dorotea stava pensando che non sarebbe scesa di nuovo, ma avrebbe mandato a dire al marito che non si sentiva bene e preferiva restare di sopra. Non si era mai lasciata deliberatamente governare dal proprio risentimento in questo modo, ma adesso credeva che non sarebbe stata capace di vederlo di nuovo senza dirgli la verità sui propri sentimenti, e doveva aspettare finché potesse farlo senza interrompersi. Egli avrebbe potuto stupirsi del suo messaggio e restarne ferito. Era bene che si stupisse. E restasse ferito. La sua ira le disse, come l'ira incline a dire, che Dio era con lei, che tutto il cielo, per quanto era affollato di spiriti intenti ad osservarli, doveva essere dalla sua parte. Aveva deciso di suonare il campanello, quando ci fu un colpo secco alla porta. Mister Kesab aveva mandato a dire che avrebbe cenato in biblioteca. Desiderava essere lasciato completamente solo quella sera, poiché era assai occupato. Allora non cenerò, Tantrip. Oh, signora, lasciate che vi porti io qualcosa. No, non sto bene. Prepara tutto nel mio spogliatoio, ma ti prego di non disturbarmi di nuovo. Dorothea rimase seduta quasi immobile, lottando mentre meditava, e la sera lentamente si infittiva e diventava notte. Ma la lotta cambiava continuamente, come quella di un uomo che comincia con un movimento per colpire e finisce per dominare quel desiderio. L'energia che sarebbe necessaria per un delitto non è maggiore di quella necessaria ad ispirare una sottomissione risoluta, allorché la nobile consuetudine dell'anima si riafferma. Il pensiero con cui Dorothea era uscita incontro al marito, la sua convinzione che egli si fosse informato sulla possibile interruzione di tutto il suo lavoro e che la risposta gli doveva aver straziato il cuore, non poteva attendere a lungo e levarsi accanto all'immagine di lui come un austero ammonitore che osservava la sua ira con triste rimostranza. Le costò una litania di immagini dolorose e di grida mute perché lei potesse essere la benedizione per quelle pene, ma la sottomissione risoluta giunse. E quando la casa fu silenziosa e lei sapeva che si approssimava il momento in cui Mister Kesabo abitualmente si recava a riposare, lei aprì dolcemente la porta e rimase fuori, nell'oscurità, ad attendere che venisse di sopra con una candela in mano. Se non fosse venuto subito, pensò che sarebbe scesa e avrebbe persino rischiato di incorrere in un altro dolore. Non si sarebbe più aspettata altro. Ma udì invece la porta della biblioteca aprirsi e lentamente la luce avanzò su per la scala, senza rumore, per i passi sulla guida. Quando il marito si trovò di fronte a lei, vide che il suo volto era più smunto. Egli sobbalzò lievemente al vederla e lei alzò lo sguardo verso di lui, implorante, senza parlare. Dorothea, egli disse con tono di dolce sorpresa, mi stavate aspettando? Sì, non volevo disturbarvi. Andiamo, cara, andiamo. Siete giovani e non avete bisogno di allungarvi la vita vegliando. Quando la gentile, quieta malinconia di quelle parole giunse alle orecchie di Dorothea, lei provò qualcosa di simile alla gratitudine che potrebbe sgorgare in noi se avessimo evitato per un filo di fare del male a uno storpio. Mise la mano in quella del marito e percorsero insieme l'ampio corridoio. Libro quinto. La mano del morto. Capitolo 43. Dorothea si assentava di rado da casa senza il marito, ma in qualche occasione andava in carrozza fino a Middlemarch da sola, per piccole commissioni o opere pie, come qualsiasi signora più o meno benestante che abiti nel raggio di 3 miglia da una città. 2 giorni dopo l'episodio del sentiero del Tasso, decise di servirsi di una simile occasione allo scopo, se possibile, di vedere Lydgate e sapere da lui se il marito aveva avvertito un qualsiasi allarmante cambiamento di sintomi che le nascondeva e se aveva insistito per sapere tutto su di sé. Si sentiva quasi in colpa a chiedere informazioni su di lui a un'altra persona, ma il timore di essere all'oscuro, il timore di quell'ignoranza che l'avrebbe resa ingiusta o crudele, vinse ogni scrupolo. Che nella mente del marito avesse avuto luogo una qualche crisi ne era certa. Proprio il giorno successivo aveva iniziato a disporre le sue note secondo un metodo diverso e si era servito di lei in modo del tutto nuovo per realizzare il suo progetto. La povera Dorothea aveva bisogno di procurarsi grandi riserve di pazienza. Erano circa le 4 quando arrivò a casa di Lydgate a Lowick Gate e si rimproverò nel dubbio immediato di non trovarlo a casa, di non avergli scritto in precedenza. E infatti lui non era in casa. Mrs. Lydgate è in casa? Chiese Dorothea, che mai, per quanto ricordava, aveva visto Rosamond, ma ora ricordò il fatto del matrimonio. Sì, Mrs. Lydgate era in casa. Vorrei entrare e parlarle, se me lo permette. Volete chiedere se può vedermi? Vedere Mrs. Casabo per alcuni minuti? Dopo che il servitore fu andato a comunicare il messaggio, Dorotea udì un suono di musica attraverso una finestra aperta, alcune note di una voce maschile e poi un pianoforte che esplodeva in un gorgheggio. Ma il gorgheggio si interruppe d'improvviso e quindi il servitore tornò dicendo che Mrs. Lydgate sarebbe stata lieta di incontrare Mrs. Casaubon. Quando la porta del salotto si aprì e Dorotea entrò, si notò una specie di contrasto non infrequente nella vita di provincia, quando le abitudini dei diversi ceti erano meno uniformi di ora. Coloro che lo sanno ci dicono esattamente che tessuto era quello che Dorotea indossava in quei miti giorni di autunno, quel tessuto di lana bianca sottile, morbido al tatto e alla vista. Sembrava sempre che fosse stato lavato di fresco e che esalasse l'odore delle dolci siepi. Aveva sempre la forma di un mantello con le maniche che pendevano, completamente fuori moda. Eppure, se fosse entrata davanti a un pubblico silenzioso nei ruoli di Imogene o la figlia di Catone, l'abito sarebbe potuto sembrare abbastanza adeguato. La grazia e la dignità erano nelle sue membra, nel collo, e attorno ai suoi capelli semplicemente spartiti e ai candidi occhi, l'ampio rotondo cappello a tesa larga che il destino allora imponeva alle donne. Non sembrava più strano come copricapo di quel tocco dorato che chiamiamo aureola. Dall'attuale pubblico di due persone, nessuna eroina drammatica avrebbe potuto essere attesa con maggiore interesse di Mrs. Casaubon. Per Rosamond, lei era una di quelle divinità di campagna che non si mescolavano con i mortali di Middlemarch, di cui valeva la pena studiare ogni minimo particolare dei modi e dell'aspetto. Per di più, Rosamond era in un certo senso soddisfatta che Mrs. Casaubon avesse l'occasione di studiare lei. A che serve essere raffinate se non si è viste dai migliori giudici? Dato che Rosamond era stata oggetto dei più alti complimenti a casa di Sir Godwin Lydgate, si sentiva del tutto sicura dell'impressione che poteva suscitare su persone di origini altolocate. Dorotea tese la mano con la consueta semplice gentilezza e guardò ammirata la stupenda sposa di Lydgate, consapevole che nella stanza c'era anche un gentiluomo a una certa distanza, di cui vedeva con la coda dell'occhio solo la figura vestita. Il signore era troppo colpito dalla presenza di una delle due donne per riflettere sul contrasto fra le due, un contrasto che per un osservatore calmo sarebbe stato certo sorprendente. Erano entrambe alte e i loro occhi erano allo stesso livello, ma immaginate il biondo e la stupenda corona di trecce di Rosamond, col sobito azzurro pallido di un taglio e di uno stile così perfetti che nessun sarto avrebbe potuto vederlo senza emozione. Un ampio colletto ricamato, di cui tutti gli osservatori si sperava che conoscessero il prezzo, le piccole mani debitamente messe a risalto da anelli e quel controllato imbarazzo di modi che è il sostituto costoso della semplicità. Vi ringrazio moltissimo per avermi permesso di interrompervi, disse immediatamente Dorotea. Sono ansiosa di vedere Mr. Lydgate, se possibile prima che io ritorni a casa, e speravo che voi forse potreste dirmi dove potrei trovarlo, o addirittura consentirmi di attenderlo. Se vi aspettate che torni presto. È al nuovo ospedale, disse Rosamond. Non sono certa di quando verrà a casa, ma posso mandarlo a chiamare. Volete consentirmi di andarlo a prendere? Disse Bill Ladislav facendosi avanti. Aveva già raccolto il cappello prima che Dorothea entrasse. Lei arrossì dalla sorpresa, ma gli tese la mano con un sorriso di inconfondibile piacere, dicendo: Non sapevo che foste voi, non pensavo di trovarvi qui. Posso andare all'ospedale e dire a Mr. Lydgate che desiderate vederlo? Chiese Will. Si farebbe prima mandargli la carrozza, disse Dorotea, se volete essere così gentile da comunicare il messaggio al cocchiere. Will si stava dirigendo verso la porta quando Dorotea, nella cui mente erano balenati in un istante molti ricordi collegati, si volse in fretta e disse: Andrò io stessa, grazie. Non voglio perdere tempo prima di arrivare a casa. Andrò in carrozza fino all'ospedale e là vedrò Mr. Lydgate. Vi prego di scusarmi, Mrs. Lydgate. Vi sono molto obbligata.